about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Buon sabato da Federico Taddia, ancora l'altra Europa, facebook.com/l'altra Europa oppure chiocciola Federico Taddia su Twitter, l'hashtag è l'altra Europa, queste le coordinate per trovare tutti i link che vi segnaliamo minuto per minuto con gli argomenti che andiamo a toccare. E riapriamo questa seconda parte del programma parlando di cambiamento climatico. Non pensate immediatamente alla pioggia che ci sta accompagnando e che ci accompagnerà anche in questi giorni. Parliamo di mutamenti reali, mutamenti quelli anche preoccupanti, quei mutamenti che possono cambiare fortemente anche le nostre abitudini, quei cambiamenti che possono anche incidere a livello economico in primis, ma anche a livello politico e sociale e di conseguenza. Beh, la Commissione europea ha un nuovo progetto, è un sito web nato per raccontare questi cambiamenti climatici e per limitare i danni derivanti da questi cambiamenti climatici. E con noi c'è Matteo Rini della Direzione Generale Azione Climatica della Commissione Europea che ha coordinato il progetto. Ciao Matteo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao. Buongiorno. Basta un portale, basta un sito internet per limitare i danni del cambiamento climatico? No, certamente non basta un sito internet, ci vuole un'azione sia a livello politico, sia a livello di educazione, a livello sociale, eccetera, eccetera, a livello economico naturalmente. Questo sito internet è sostanzialmente un contributo all'informazione per fare in modo che chi si occupa di cambio climatico abbia l'informazione più attuale, più recente, più accessibile, che possa utilizzarla per prendere delle decisioni in maniera sensata, diciamo. Ci vuoi dare immediatamente le coordinate? Qual è l'indirizzo? L'indirizzo web di questa pagina web è allora www.climate-adapt.eea.europa.eu. Comunque più facilmente basta cercare su Google Climate Adapt, si può anche accedere attraverso la pagina, il sito internet dell'Agenzia dell'Ambiente Europea. Mm-hmm. Climate Adapt, quindi è il nome del progetto. Ecco, quando pensate ai contenuti, pensate anche ai lettori, ai fruitori di questo portale, è per addetti ai lavori o è per i cittadini? Diciamo, questo portale è stato sviluppato per addetti ai lavori, che però non sono necessariamente persone esperte di cambio climatico. Addetti ai lavori per noi sono persone che si occupano di politiche che possono avere a che fare con il cambio climatico, per esempio l'agricoltura, per esempio la gestione dell'acqua, la biodiversità, eccetera, eccetera. Quindi non sono necessariamente persone che sanno dal punto di vista tecnico e scientifico qualcosa di cambio climatico, ma che ne devono tener conto mentre sviluppano le loro politiche nei rispettivi campi. Quindi è una pagina web che è aperta al pubblico, diciamo non è dal punto di vista tecnico molto complicata, proprio perché ci rivolgiamo a persone che magari non hanno mai pensato al cambio climatico. Però è una pagina per addetti ai lavori, da questo punto di vista. Certo. Matteo, pensando ai cambiamenti climatici e all'Europa, quali sono i punti di maggior criticità? Quali sono le preoccupazioni reali? Ma diciamo, dal punto di vista degli impatti, alcune preoccupazioni sono molto chiare. Ci sono due tipi di preoccupazioni. Una è quella che riguarda cambiamenti graduali che però possono avere degli effetti anche devastanti. Uno è l'aumento medio delle temperature, l'innalzamento del livello dei mari, lo scioglimento dei ghiacciai, sono cose che da un certo punto di vista riusciamo a prevedere e a cui potremo riuscire ad adattarci lentamente. L'altra parte sono invece gli eventi estremi, che sono molto più difficili naturalmente da prevedere, come possono essere le alluvioni, le ondate di calore, e entrambe queste componenti, sia la componente graduale che quella estrema, secondo gli esperti scientifici, sono destinate a cambiare, a crescere molto nei prossimi decenni. Quindi in particolare per l'Italia, per il sud Europa, aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai per l'area alpina, e l'aumento di alluvioni, precipitazioni, eccetera eccetera. Certo, e dal punto di vista della comunicazione è ancora tempo di allarmismo o si è passati a uno step successivo, quello un po' più forse di una presa di consapevolezza? Ma io direi che da un certo punto di vista è sempre tempo di allarmismo, nel senso che dal punto di vista politico, soprattutto a livello globale, si sta facendo molto poco. Negli ultimi anni le emissioni di gas a effetto serra sono soltanto cresciute, a parte in Europa che ha una politica molto ambiziosa, però se l'Europa è da sola in questo sforzo non si arriverà da nessuna parte. Quindi l'allarmismo da un certo punto di vista serve, perché bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica, sensibilizzare la politica e fare in modo che si sviluppino delle risposte. Nello stesso tempo la nostra conoscenza del sistema climatico sta migliorando, le nostre capacità di previsioni stanno diventando più sofisticate, quindi si possono anche sviluppare delle risposte che siano più focalizzate e più razionali, diciamo. Quindi non semplicemente reagire alle emergenze, ma fare un piano concreto, razionale per cercare di far fronte a quello che succederà nei prossimi decenni. Grazie davvero a Matteo Rini della Direzione Generale Azione Climatica della Commissione Europea, Climate Lineata Adapt eea.europa.eu, ma il link lo trovate già sulle nostre pagine in internet. Ciao Matteo, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Ciao, grazie mille, buona giornata a tutti.